Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Una ogni 25 abitanti. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Tante sono le macchinette, i distributori automatici sparsi nel nostro paese, un settore che resiste alla crisi e che non offre più solo caffè e merendine. Le vending machine oggi conquistano nuovi prodotti e nuovi spazi. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Siete stati contagiati anche voi dalla Olimpiadi Mania. In attesa del 27 luglio, data d'inizio dei Giochi di Londra, i cinque cerchi spopolano nel mondo dei consumi, nuovi prodotti e nuove campagne pubblicitarie per cavalcare l'onda olimpica. Ne parliamo nel focus sui trend. Prima però ci sono, come sempre, le notizie e curiosità di questa settimana. Intel studia la pubblicità su misura. L'azienda sta per lanciare sul mercato un box televisivo in grado di riconoscere lo spettatore e permettere alle emittenti di mandare in onda spot mirati per età e sesso. Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Child Guardian Award 2012 di Terre des Hommes, premio riservato alle campagne pubblicitarie che offrono l'immagine più corretta dei bambini. È Mohamed Ali il nuovo testimonial di Louis Vuitton per la campagna con cui la Maison intende sostenere il Climate Project di Al Gore. L'ex pugile settantenne è stato ripreso dall'obiettivo della famosa fotografa Annie Leibovitz, mentre è nel giardino di casa sua in compagnia del nipote di 3 anni. Italy sbarca a Roma. Per il più grande department store della catena dedicata al cibo di eccellenza Made in Italy, all'Air Terminal di Roma Ostiense, 4 piani per 23 ristoranti o corner ristoro e 40 aree didattiche. Fendi celebra i 15 anni della baguette, la piccola borsa icona creata nel 1997. Realizzata in 1000 modelli diversi per oltre 1 milione di pezzi venduti nel mondo, la baguette è esposta al MoMA di New York e in 80 casi ha ricevuto il tocco artistico di nomi come Jeff Koons, Tom Sachs, Damien Hirst e Francesco Vezzoli. La borsa della spesa. Ma questo caffè sa di moquette bagnata! Guardi, guardi! C'è qualcosa di strano, In effetti c'è più fondo del solito. Ma che strano! Sembra un uovo vicino a un fuoco. Dici? A me sembra il fondo di un caffè. Oddio, oddio! Ho bruciato le uova! No! Avevi ragione tu! Uova? Fuoco. Patti, ma tu leggi il futuro dei fondi di caffè? Secondo me no. Poi leggi anche il mio. Oh, signorina Patti, lei è come la maga della TV. Devo darle anche 50 euro. Ciao Alex, amica mia, come stai? Ciao Patti. Ciao. Sai che questo articolo ha proprio ragione? Quale? Quello che dice che le donne incinte hanno un sacco di spese e che affrontando un futuro incerto anche un caffè offerto sarebbe una bella notizia. Vieni, Patti, le avevo avanzate giusto per te. Bravi. No, parlo di questo. Para. Su quanto è importante creare legami con i colleghi anche fuori dal lavoro. Noi lo facciamo poco. Tu stai per sposare Luca, io aspetto un figlio da Silvano, dico non ti basta? Ma che c'entra, Patti? Io sto parlando di andare oltre le coppie, stringere legami anche incrociati. Cioè tu vuoi un figlio da Silvano, io dovrei sposare Luca? Oh, ma che articoli lei? Patti, sveglia, sto parlando di una cena tutti e quattro insieme. Ah, avevo capito! Tutti e quattro insieme! Tutti e quattro chi? Era Camera Caffè, l'avrete sicuramente riconosciuta, la sitcom che ha reso popolare la macchinetta per la cosiddetta pausa caffè, la consacrazione definitiva per uno dei simboli del boom anni 60 che nonostante la crisi resta in crescita. Le vending machine in Italia sono ormai 2 milioni e mezzo, una ogni 25 abitanti, il settore fattura oltre 2 miliardi e mezzo di euro per prodotti che vanno dal caffè al latte fresco, passando per abbigliamento, libri, medicine, persino gioielli. Le location non comprendono più solo uffici, scuole, ospedali e stazioni. I distributori automatici, insomma, sono considerati la nuova frontiera dello shopping. E le macchinette del futuro, dotate di webcam e riconoscitori biometrici, interagiranno sempre di più con il consumatore, ci dice Luca Pinetti, presidente di Confida, l'associazione italiana dei distributori automatici. Beh, è un settore

Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. È una vera e propria olimpiadi mania quella che contagia in queste settimane la moda, il design, la tecnologia, la pubblicità. Sono moltissimi i marchi che hanno deciso di cavalcare le olimpiadi con campagne e prodotti studiati ad hoc. I giochi di Londra diventano così un fenomeno di costume che supera i confini delle gare ed entra nella vita di tutti i giorni. Sarà Londra 2012 quello che indosseranno gli atleti, nuove star indiscusse della moda che rubano il lavoro ai modelli di professione, a decidere come ci vestiremo nei prossimi mesi, per la corsetta al parco, ma non solo per quella, all'insegna di un vero e proprio Olympic style. Patrizia. Lo sport è decisamente ormai un fenomeno di costume, campioni e atleti sono testimonial protagonisti consueti ormai della pubblicità, sono sulle copertine, sui calendari, sono al centro non solo delle cronache sportive ma anche delle rubriche di gossip. Gli stilisti, citavi la moda, hanno sempre frugato nel mondo dello sport, surf, calcio, bici, tennis, con citazioni, allusioni, riferimenti fino quasi alla totale aderenza. Soprattutto a partire dagli anni 80-90 lo sport detta legge, la sport attitude come la chiama Karl Lagerfeld, è arrivata a influenzare anche il lusso e marchi come Chanel. Oggi sport e moda si fondono, pensiamo, per citare solo un paio di esempi, allo sportivissimo Birkenbergs o a Moncler che assorbe esplicitamente nelle nuove linee scherma, vela, tennis e equitazione. E mai però come adesso questa fusione è così spinta, all'insegna certamente della mania per il salutismo e la wellness, i capi tecnici d'abbigliamento specialistico per le varie discipline sono diventati parte integrante del guardaroba di tutti e appunto entrano anche nelle collezioni haute couture, un po' per la vicinanza alle Olimpiadi certamente, ma anche per ancorare l'incertezza dei tempi a questi mondi che sono solidi, fisici, appunto proprio come gli sport che rappresentano. Un capo icona è certamente la felpa con cappuccio, simbolo di fatica, sudore, che dalle palestre, dalla strada, dai writers per esempio, è salita nell'Olimpo della moda e del lusso, declinata da tutti gli stilisti in tutti i modi, in tutti i tessuti. Un esempio, la linea Jim di Dolce & Gabbana, ispirata al ring e al pugilato specificamente, e la sponsorship del marchio della squadra italiana di pugilato D&G Milano Thunder, per la quale appunto ha disegnato le divise da combattimento. E Giorgio Armani ad aver disegnato invece quelle degli atleti italiani che partecipano ai Giochi di Londra. Slogan: siamo già campioni di eleganza. E Ralph Lauren quelle degli americani, mentre Nike ha realizzato per esempio l'outfit della squadra di calcio olandese con il 100% di materiali riciclati da bottiglie di plastica. Comune denominatore trasversale a materiali, design e dettagli la bandiera britannica come elemento grafico che ritroviamo sul portamonete per esempio di Jimmy Choo, sulla pochette di Alexander McQueen con teschio, sui boxer di Intimissimi, sulle sneaker di Yamamoto e di Puma e sui ciondoli di Swarovski con la guardia della regina, per fare alcuni esempi. Da Colette, notissimo concept store parigino, che ha inaugurato una sezione dedicata ai giochi olimpici, si chiama Colette Olympics, si trovano di artisti, designer e marchi diversi, dalla carta da parati alle compilation musicali, agli abiti, agli accessori, alle biciclette, per esempio quella in edizione limitata di Lacoste a 2.500 euro, tutto rigorosamente a tema olimpiadi. Giochi olimpici che ispirano anche l'arte, è disponibile da giugno ma già esposta a London Transport Museum all'interno di una mostra sulla cartografia dei trasporti londinesi, è la mappa personale della metropolitana di Londra realizzata dall'artista Tracy Emin e in vendita appunto in occasione delle Olimpiadi. È una mappa disegnata a mano che ridefinisce graficamente le tratte del metrò come rami con foglie di un albero, una visione naturale sofisticata delle gallerie sotterranee con tanto di uccello posato su uno di questi rami, un'idea di Londra poetica e naïve. A dirigere le cerimonie ufficiali a Londra ci sarà il regista di The Millionaire, Danny Boyle. A un film divenuto un vero e proprio cult, le Olimpiadi devono del resto l'affresco più popolare e più suggestivo di sempre, Momenti di Gloria. Siamo qui oggi per rendere grazie per la vita di Harold Abrahams e onorarne il mito. Ora siamo rimasti in due soli, il giovane Aubrey Montague ed io, che possiamo, chiudendo gli occhi, ricordare quei pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi. Deve molta della sua fortuna a questa musica, la celebre colonna sonora del compositore greco Vangelis, che divenne un vero e proprio inno allo sport. Patrizia, questi giochi 2012 cadono nel pieno dell'espansione dei media digitali, questo amplifica la loro ricaduta sui consumi. Certo, e precisiamo la natura di questa espansione, che è legata proprio alla crescita esponenziale dell'uso dei media digitali dai dispositivi mobili connessi a internet. Media digitali, per parlare di consumi, che sono l'unico comparto, tra l'altro, del mercato pubblicitario che continua a crescere. Quindi sì, la ricaduta c'è sia sui consumi correlati direttamente ai giochi che sui modi di fruizione, per esempio, delle gare, degli eventi, così come sulle modalità con cui la città stessa, Londra, interagirà con chi sarà lì durante i giochi e farà interagire atleti e tifosi. HubOlympics.org, per esempio, è la piattaforma che raccoglie tutte le informazioni su atleti, squadre e discipline che si possono seguire via social network, che conta già milioni di like, e anche in termini di diffusione dell'immaginario sportivo e relativi marchi di riferimento gli effetti sono evidenti. Foursquare, società di geolocalizzazione degli utenti della rete, in collaborazione proprio con il Comitato dei Giochi Olimpici che ha promosso questa piattaforma, sta sviluppando una serie di modalità proprio per l'interazione tra atleti e user, in modo che tutti possano sapere come vivono questi atleti, come si allenano, che dieta fanno, come si prendono cura del loro corpo, eccetera, traendone consigli utili per la salute e la forma anche di chi sportivo non è. E i vari dispositivi di gioco, di gamification che Foursquare sta progettando, non avranno solo obiettivi di benefit economici per gli utenti, per esempio vincere un viaggio a Londra a luglio, ma di coinvolgerli proprio per migliorarne lo stile di vita in termini di benessere fisico. Altro esempio, la app Reroute, cambia strada potremmo tradurre, sviluppata da Recycle Bank e Transport for London, traccia i percorsi dei londinesi che decideranno di spostarsi a piedi o in bicicletta durante i giochi e li premia per questo loro comportamento sostenibile e decisivo in un momento evidente di sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblici. Con un meccanismo semplice si accumulano dei punti che diventano sconti per acquisti da Marks & Spencer, Planet Organic, Champneys e altri negozi partner dell'iniziativa. E sempre sull'uso dei media digitali, il caso di Samsung Electronics, che è uno dei principali sponsor dei giochi, che ha assoldato blogger in tutto il mondo per dare risonanza a tutti gli eventi di lancio del suo nuovo smartphone Galaxy 3S concomitante ai giochi. Panasonic, per incentivare gli acquisti di televisori, un settore che ha segnato il meno 35% negli ultimi 6 mesi, offre in esclusiva ai broadcaster le riprese in 3D in alta definizione. E ancora Acer ha una accordo per il product placement dei suoi ultrabook computer, ma oltre a queste e alle moltissime formule di sponsorship, tra cui figura anche BP, lo ricordiamo, compagnia petrolifera responsabile del disastro ecologico del Golfo del Messico, che sta forse cercando un difficile recupero di immagine, sono molte le campagne di comunicazione ad hoc dei grandi marchi globali come McDonald's, Visa e Coca-Cola. Coca-Cola che tra l'altro ha creato un'installazione sonora, si chiama Beatbox, una sorta di gigantesca scultura interattiva, un caso di architettura sperimentale insieme a una tecnologia del suono avanguardistica che si potrà suonare da utenti, da passanti, creando composizioni che rimixeranno gli inni olimpici. Staremo a vedere e a sentire. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra? Non potevano che essere puntati lì i nostri riflettori su Olimpiadi e consumi, ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Beh, Giochi Olimpici a parte, quest'estate ci sarà una ragione in più per attraversare la Manica. Dal 28 luglio al 6 agosto, infatti, il Noma, il ristorante danese eletto per ben 2 anni di fila miglior ristorante al mondo, sbarcherà in città, proprio in concomitanza con i Giochi Olimpici, temporaneamente ospitato nella ballroom dell'Hotel Claridge. Unendo l'utile al dilettevole, visto che il ristorante madre di Copenaghen rimarrà chiuso all'incirca nello stesso periodo per ristrutturazioni, il pluripremiato chef René Redzepi si esibirà ogni giorno a pranzo e a cena in uno speciale menù. Un assaggio, e non a caso il pop-up restaurant si chiamerà A Taste of Noma, un assaggio di Noma, un assaggio, dicevo, della sua cucina di ricerca e ispirazione nordica, che non a caso l'ha catapultato nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo, stilata da Time Magazine, utilizzando per l'occasione ingredienti locali, di stagione e della tradizione britannica. Ogni pasto sarà preceduto da uno champagne di benvenuto e composto da 5 portate al costo di 195 sterline. Inutile dire che l'iniziativa ha già registrato il tutto esaurito. Grazie Alessia. Patrizia, alla fine il prodotto più venduto di queste Olimpiadi sarà la stessa Londra. Certo, Londra, che evidentemente sarà al centro, è già e sarà al centro degli interessi mediatici, coglie l'occasione per combinare business legato ai giochi con un self-branding, l'autopromozione di se stessa come smart city del futuro, cioè una città tecnologica, social e sostenibile. Per esempio, ha disposto una nuova tecnologia che misurerà l'inquinamento prodotto durante le Olimpiadi. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.